Ciao, sono Ciro Scognamiglio e vi dico questo, ascoltatori, il giro è bellissimo, il Giro d'Italia, però a volte ci sono delle incombenze a cui sottoporsi non così piacevoli. Per esempio, con la scusa del fatto che oggi si arriva a Napoli, che martedì si ripartirà dopo il riposo da Pompei, e con il fatto che io sono di Torre del Greco, esattamente a metà tra Napoli e Pompei, questi amici, sì, sono amici, anche se a volte un po' molesti, come dire, o inopportuni magari anche si potrebbe dire, di Gironimo, mi hanno chiesto di introdurre la loro puntata odierna. Quindi è quello che ho fatto, magari non proprio volendolo, però l'ho fatto, ho adempiuto a questa incombenza, chiamiamola così. A voi! Amiche e amici del ciclismo, del Giro d'Italia, ma del riposo, soprattutto del riposo, grande divinità e ispiratore di tutto ciò che noi facciamo. Noi lavoriamo, intervistiamo, facciamo strade e tutto quanto, ma tutto questo lo facciamo solo ed esclusivamente per riposarci. E quale città migliore per riposarsi di Napoli, anzi di Torre del Greco, dove ci troviamo quest'oggi, città da cui proviene anche il nostro carissimo amico Ciro Scognamiglio, giornalista della Gazzetta dello Sport, che già tutti conoscerete, che ci ha introdotto a questa puntata numero 9+0 di Gironimo 2024, il podcast di Alvento dedicato al Giro d'Italia 2024, realizzato in collaborazione con Shimano. Io sono Filippo Cauz, di fronte a me c'è Michele Pelacci. Che sa quanto fa 9+0? Quanto fa? 9? Non è così scontato. Cioè, perché se poi vai a contare le puntate? Sono 10. Questa è la teoria della relatività. Mi sembra. Perché la matematica non è una scienza esatta, come ci può confermare il nostro statistico, che non è quello della Pelacci Analytics, ma è Leonardo Piccione. Ex ormai, ex tanti anni fa. Buonasera, ciao, ciao. Ciao, benvenuto a questa puntata di Gironimo. Grazie, grazie. Benvenuta anche a voi. Ancora di più, perché non l'abbiamo vista per tutto il giorno, poi ve lo racconteremo. C'è Marta Bacigalupo. Un nuovo giorno è qui, anche per noi. Un mondo più vero si sveglierà se questa vita siamo noi. Ma non mi interrompete più, devo cantarla tutta. Ci piaceva. Ah, vabbè, ci piaceva. Avevamo già lo scopo principale. Non si è di visto, ma avevamo acceso gli accendini e stavamo agitando le braccia con grande gioia. Questo era per l'arrivo a Posillipo, scusate. Era per l'arrivo a Chiaia, in realtà, ma sì, con il passaggio da Posillipo prima di arrivare a Chiaia. Noi accendiamo gli accendini con gioia quando Marta Bacigalupo canta e altrettanto lo facciamo quando Leonardo Piccione ci somministra i suoi acrostici. Tuttavia, purtroppo avete anticipato un verbo che io ho utilizzato oggi. Noi non ci confrontiamo prima su riposo, Napoli, la R di Napoli. No, la A del verbo che state per ascoltare, quindi Napoli. Acrostico. No, non è neanche quello. Su Napoli io ho composto questa cosa qui. Narvaez accende Posillipo occhieggiando l'impresa. Solo occhieggiata, però non è riuscito a portarla a termine. Però prima di parlare di Narvaez, del tentativo quasi riuscito, del numero quasi riuscito del campione dell'Ecuador, come sempre la sintesi della tappa, le sillabe d'amore, anzi, di Michele Pelacci, prego. La coppia della Polticometa, formata da Maestri e Pietro Bon, si sorbisce quasi 200 km e tre regioni in fuga. Dopo Abruzzo e Lazio si arriva in Campania e sul lungomare dei Campi Flegrei il percorso è piuttosto mosso. Il primo ad attaccare verso Monte di Procida è Julien Alaphilippe. Lo seguono in diversi corridori a svariate riprese. Il più convinto di tutti è Cousteau. La coppia francese rimane in avascoperta per diversi chilometri, finché sull'ultimo strappo verso Posillipo non esplode la corsa. E ad avvantaggiarsi è, da solo, Jonathan Narvaez. Quella del campione di Ecuador sembra sparata buona. La Lidl Trek prova a inseguire a tutta velocità, pure la maglia rosa di Pogacar si impegna per riprendere Narvaez. L'esito è incerto fino agli ultimi 100 metri, ma alla fine, al photo finish, Olav Koi batte Jonathan Milan. Ottimo, preciso, puntuale, come sempre, Michele Gennaro Sebastiano Salvatore Pelacci. andiamo ancora di più sullo specifico e le classifiche che... Sì, subito le classifiche... Le abbiamo. Sono state comunicate. Ha vinto Olaf Koi su Jonathan Milan e Molano terzo. Quarto Alberto Dainese, quinto Danny Van Poppel e sesto Madis Minkels. Vi ricordate il soprannome di Minkels? È Beavis. Settimo quindi Butthead. Chi è arrivato settimo? No, non è arrivato Butthead. Settimo è arrivato Caden Groves della Malpici. Magari è soprannominato Butthead, che ne sappiamo. Bisognerà proporglielo. Ottavo Andrea Vendrame, nono Davide Ballerini e decimo Max Canter. Due corridori della Stana, nono e decimo Ballerini Canter. In classifica generale non è cambiato nulla, ma ve la leggo visto che domani non avrò questo piacere essendo giorno di riposo. Questa è la classifica con cui si va al primo giorno di riposo del giro. Tadej Pogacar, l'avrete sentito forse in maglia rosa, a 2.40 segue Dani Martinez, a 2.58 Geraint Thomas della Ineos. Poi a seguire, non vi dico il distacco, è sopra i 3 minuti abbondantemente, Ben O'Connor, quinto Kian Uijdebroeks, sesto Antonio Tiberi, settimo Lorenzo Fortunato, ottavo Einer Rubio, nono Tymen Arensman e decimo Jan Hirt. Queste le classifiche, cominciamo a parlare dei temi della tappa, come solo lei sa fare, Marta, che estrae oggi la carta e con la sua giromanzia ci appunto introduce una storia, un personaggio o due forse oggi che si sono resi protagonisti. Basta spoiler, altrimenti qua poi non riesco a giromantare niente. Allora, la carta di oggi che viene estratta è quella dell'eremita. L'eremita che in questo caso, come abbiamo detto, sono due. La carta estratta dal lato dritto significa introspezione, saggezza, pazienza, interiorizzazione e ricerca. E di tempo per avere pazienza, saggezza non so francamente, ma ricerca senz'altro i due fuggitivi ne hanno avuta moltissima, tanto che dall'auto di Shimano, come poi vi racconterò, si diceva adesso guarda questi drittoni, si devono ben concentrare sulla linea bianca perché altrimenti impazziscono, perché non sappiamo, cioè è stata veramente pesante come giornata per loro. Al rovescio, infatti, la carta significa solitudine, fatica e procrastinazione dell'azione della tappa. Eh sì, mi sembra proprio calzante questa carta, ricordiamo e sottolineiamo i nomi dei due protagonisti. Ovvio, sì, che sono appunto Andrea Pietrobon e Mirko Maestri della Polti. Chiudiamo dicendo appunto che la solitudine comunque è la patria dei forti. La solitudine, lo sai. Facciamo tutta la puntata cantando stasera. Canzoni tutte brutte. Cantiamo solo canzoni brutte per tutta la serata. Ma quindi rifacciamo l'Eurovision. Esatto, in omaggio all'Eurofestival che è stato vinto, non si capisce come, da un paese neutrale che non si capisce come possa vincere. Ma questo podcast, giusto per oggi, non è sull'Eurofestival, è sul Giro d'Italia. Sì, diciamo due parole su questi due. Allora, diciamo subito, iniziamo dalla polemica. Ok, non è stato usato a sufficienza l'espressione trofeo baracchi, cioè oggi era la giornata per parlare solo di in telecronaca avrebbero dovuto dire trofeo baracchi in ogni frase, anche nel tuo acrostico. non c'è la B, neanche la T credo. Comunque sì, c'è la giornata che è iniziata. Allora, succede sempre al giro a un certo punto che ci mettiamo in auto, guardiamo gli aggiornamenti della tappa ed è quel giorno, quello in cui uno o due compagni di una professional italiana partono all'attacco e ci diciamo, vabbè, è quel giorno lì, insomma, non succederà nient'altro, bravi ragazzi che ci credete, ci date, insomma, sostenete la divinità delle fughe, che è quella in cui anche noi crediamo dopo quella del riposo, e invece poi è successo, cioè è stata anche un po' una scintilla per animare una tappa ben più... frizzante. Sì, perché Andrea Pietrobon e Mirko Maestri si sono poi ritrovati protagonisti, dopo esserlo stati in solitaria, degli altri tentativi che man mano si sono aggiunti a loro, in particolare quello promosso poi da Julian Alaphilippe. Non hanno mollato, in particolare Mirko Maestri è rimasto avanti fino alle fasi quasi decisive della corsa, è stato omaggiato, premiato come combattivo di giornata e ci ho parlato subito dopo la linea del traguardo, lui è arrivato con calma, giustamente, quando la tappa è stata decisa dai migliori, dai velocisti. Ascoltiamo quello che ci ha detto dopo la linea Mirko Maestri. Quante ne avevi oggi? Non abbastanza. Tante, no, però. Sì, ho un periodo che sto abbastanza bene, e a parte un po' di raffreddore così, ma che ci si porta ogni tanto al giro, capita. E però niente, dai, abbiamo provato a anticipare, speravamo in un gruppetto un po' più numeroso, però insomma io e il mio compagno di squadra Pietro Bon abbiamo cercato di mettere in difficoltà il sempre più calcolatore gruppo. Senti, come si reagisce quando arrivano gli altri e tu decidi comunque di continuare? È arrivata la Filippo, poi un sacco di altra gente, tu eri sempre là, mentalmente e fisicamente come funziona questa cosa? Alla Tirreno è stato quel giorno che ci hanno preso alla fine, ho mollato di testa, oggi non volevo mollare qualsiasi cosa succedesse, finché il corpo mi ha detto basta, però insomma è stato comunque un onore cercare di ribattere alla Filippo, che per me rimane comunque un grande campione, un idolo insomma. Grazie, complimenti. Grazie mille. Gioco delle coppie o scambio di coppia, puoi capire, no? Scambio no, perché sono state due coppie diverse anche in questo finale di tappa, iniziata con una lunghissima fuga a due e che ha vissuto forse il suo momento più caliente, anche se bisognerebbe dirlo in francese, non so come si dice caliente, Marta. Caliente? Caliento, il suo momento più caliento, nell'azione a due di Julien Alaphilippe e credo si pronunci Iwan Costiu, però è veramente un nome che io in francese non ho mai sentito, per cui non so esattamente se la pronuncia sia quella corretta. Ad ogni modo, sul rettilineo d'arrivo io invece ho incontrato Costiu e ve lo faccio sentire, ma ve lo faccio sentire in coda a un brevissimo scambio, che è quello che sono le parole che si sono detti Julien Alaphilippe e Iwan Costiu quando sono arrivati sul rettilineo d'arrivo. Ed è una, così, una strana coincidenza col fatto che un anno fa eravamo sullo stesso rettilineo d'arrivo, c'era sempre una coppia all'attacco, erano Alessandro De Marchi e Simon Clark. A pochi metri proprio di distanza. E anche in quel momento ci trovammo lì a registrare quello che si dicevano, allora fu una conversazione più lunga, stavolta sono due battute, dopo le quali sentite la mia intervista con Costiu. Avant Costiu, oui. Julien Alaphilippe vient de dire ça va payer. Ça va payer? Bah ouais, j'espère. C'est, ouais, ce serait bien, ouais. Que ça paye. C'était comme votre action, toi et Julien, c'était, vous avez parlé avant ou c'était... Ouais, non, pas du tout. Bah, je savais que ça allait sûrement bouger dans la bosse et j'étais pas hyper bien placé. Et j'ai réussi quand même à remonter et je m'occupais en même temps de mon sprinter, Jente Biermans. Et après, le groupe est sorti. Je me suis replacé et direct sur le plat, dans le plat montant, j'ai attaqué. J'ai fait un gros effort pour revenir sur le groupe. Après j'ai passé quelques relais et Julien a réattaqué dans le faux plat montant. Je l'ai suivi et après c'était parti, on s'est relayé à bloc et après ouais la dernière bosse là était très dure et assez longue, donc ouais c'était compliqué avec le peloton qui revenait derrière. Tu as été heureux quand même de cette journée? Santé. Bah oui, forcément. C'est toujours un plaisir de rouler comme ça pour la gagne avec un ancien champion du monde. Surtout quelqu'un comme Julien Philippe, c'est clair que c'est pour moi qui découvre le Giro, qui découvre les courses comme ça, c'est clair que c'est un honneur, ouais, c'est un plaisir. Merci beaucoup et un bon repos. Merci. Dunque, i due si sono detti semplicemente ci abbiamo provato, eh? Nessun rimorso, che è una frase che se ci fate caso alla Filippo ci ha detto anche ieri. E citando c'è anche un'altra Max canzone Pezzali, che possiamo l'altro. Max Pezzali o Buenaventura Durruti, non sappiamo chi dei due. E poi alla Filippo conclude salutando Costiu dicendogli ça va payer, che è una frase che non è facilissima. Io la tradurrei come saremo ripagati un giorno di questi sforzi. Comunque insomma, però daje che ridaje che prima o poi ce la famo. Forse il romano era più facile. O forse la pagherete cara, la pagherete tutta. Non credo. Credo fosse rivolta a loro due, tanto che la mia breve chiacchierata con Costiu inizia chiedendogli un commento su questa affermazione e Costiu dice sì, lo spero bene che saremo ripagati. Quindi col mio eccellente francese che avete sentito gli ho chiesto come è nata l'azione, se loro due si erano accordati. E Costiu dice no, niente affatto, io avevo già preso la decisione di muovermi sulla salita. In realtà non ero piazzato benissimo, ma sono riuscito a rimontare, perché comunque dovevo anche lavorare per il nostro velocista che è Jente Biermans. Poi il gruppo si è mosso in pianura e sulla salita ho attaccato, ho fatto un grande sforzo per riprendere gli attaccanti, e dopo qualche cambio Julien è ripartito sul falso piano, io l'ho seguito ed è cominciata, intende questa breve avventura. Siamo partiti, ci siamo dati cambia tutta e l'ultima salita è stata durissima e lunga con il gruppo che tornava. e comunque gli chiedo se è felice di questa giornata. Facciamo anche un piccolo brindisi. Lui aveva l'aranciata, io avevo il registratore. Questi sono stati i due oggetti del brindisi. E lui dice: sì, assolutamente, è un piacere correre così per vincere insieme a un ex campione del mondo, soprattutto uno come Julian Alaphilippe, che per me, che sono alla scoperta del ciclismo e delle corse, è un onore e un piacere. E Alaphilippe fa il pieno di complimenti dai suoi compagni di fuga a questo Giro d'Italia. Possiamo dire che Alaphilippe è stato il maestri di Costiù in questa tappa? Molto bella. Eh? Sai che però io non so se sono d'accordo con ciò che ha detto Alaphilippe su se stesso, perché forse lo contraddico, perché io l'ho visto intervistato con uno sfondo magnifico del Vesuvio da... Ma nel senso che era tipo Felice Caccamo? No. Si vedeva anche in trasparenza ogni tanto il Vesuvio dietro la maglia della Quickstep. No. Sai chi è Felice Caccamo? No. Ah, ecco, ok, andiamo avanti. O forse era tipo la sigla di Un Posto al Sole? Sai cos'è Un Posto al Sole? Nemmeno, ma... Lui era molto contento, si diceva di essere quasi al meglio, gli mancava ancora qualcosina per lottare fino in fondo, delle tappe. Secondo me masticava un po' amaro perché sapeva di avere le gambe giuste oggi, ha solo sbagliato un attimino il momento in cui partire. Sì, possiamo dire che se avesse attaccato lui o seguito l'azione di Narvaez poi sull'ultima salita, quella verso Posillipo, forse l'azione... sarebbe andata a buon fine, l'azione di Narvaez che poi è stata annullata dalle squadre dei velocisti. Allora, da un lato sono d'accordo con questa lettura che ha sbagliato i tempi, dall'altro non credo fosse così azzardato invece muoversi in anticipo, perché quello che abbiamo notato noi oggi, abbiamo fatto l'intero finale di tappa in auto, è che è vero che c'era quel muro duro, però poi ci si picchiava giù e c'erano quei 3 chilometri di pianura subito dopo, per cui non mi scandalizza neanche l'idea di un Alaphilippe che ha pensato: se mi muovo prima, magari con un po' di supporto, metto quei 10 secondi in più che sono quelli che mi salvano in quel momento. Ma va drammatico. Bene così, Alaphilippe è in crescita, però sta ancora correndo con più cuore che gambe, mettiamola così, per quanto le gambe stiano tornando. Che poi è un po' quello che ha sempre fatto per certi versi, ma le gambe oggi forse sono un po' meno... rispetto a quelle che sapevamo, mentre il cuore è sempre grande quando si parla di Giuliano. E non so se oggi, non credo che oggi abbia ricevuto un'altra borraccia dal team manager della sua formazione, Patrick Lefebvre, che gliel'ha passata qualche giorno fa. Ad ogni modo, noi abbiamo incontrato Patrick Lefebvre vestito come si veste a queste corse in cui lui arriva un po' in vacanza, che sembra un po' Antonello Venditti, tutto bianco, col cappellone bianco, con la visiera, bellissimo. E abbiamo scambiato due battute a partire da quella scena con Alaphilippe. Patrick Lefebvre al Giro d'Italia tutti i giorni quest'anno? No, purtroppo no. Purtroppo? Sì, a me piace Italia, sai, da sempre, sono anche vissuto qua. Però come sono CEO di una squadra, devo andare a sinistra, a destra, per far vedere la mia testa a Giro, a Dunkerque, agli altri posti, e cercare sempre a contattare sponsor e cercare soldi. Quindi avevi detto che andavi in pensione, ma lavori tutti i giorni, chilometri per chilometri. Purtroppo c'è di solo che per ora sto provando, che voglio il mio posto. Quindi avevi già dei progetti per la pensione, qualcosa di divertente da fare finalmente, di relax. Volevo dire che cosa è brutto, però rompere a mia moglie e altre persone. Senti, io ti cercavo per una cosa, ho visto un video bellissimo in cui passavi le borracce a Giuliana Alaphilippe, se non sbaglio. Incredibile. Sei diventato un factotum di questa squadra. Sono un minuto nel giro e tutto il mondo l'ha visto, perché venivo dritto dall'aeroporto, e come sapete la tappa era un po' speciale con le strade bianche, e mi hanno chiesto di aiutare, e poi certamente volevano altro bibite, e io ho preso 5 borracce e ho provato ad aiutare dove potevo. Però avevi uno stile di passaggio di borraccia davvero massaggiatore, professionista. Ma io sono un talento. Altri programmi, altri ruoli che interpreterai in questa squadra come factotum? Oh, mi piace meccanici, non so niente di bici, però dare un braccia non costa niente, anche divertente. Poi ogni giorno vado con l'altro direttore, così ho parlato un po' con tutti quanti. Massaggi non li fai ancora? No, mi fa massare sì, ma non qua. Grazie mille, buona giornata. Dunque, Patrick Lefebvre non fa massaggi, è stata l'ultima carta che ho provato a giocarmi per trovare un massaggiatore che domani si prendesse cura delle mie contratture e niente, passerò un giorno di riposo così, speriamo che l'acqua del mare di Torre del Greco mi distenda i muscoli e lenisca i miei dolori come faceva un tempo con Jamaluddin Abdujaparov. E a proposito di velocisti, arriviamo... arriviamo perché non abbiamo ancora parlato della volata di oggi. Potevano vincere questa tappa due Johnny, Jonathan Narváez, Johnny Narváez o Johnny Milan, e ha vinto un Olav. Quindi, sottotitolo di tappa, non è stata magia Johnny's. Johnny's per nessuno dei due, perché ha vinto Olav Koi della Visma Lise Bike, chiamato anche, come Michele, aiutami, il ghepardo di Numansdorp. Bellissimo, bellissimo soprannome per questo ragazzo che oggi ha ottenuto una vittoria non netta, perché ha vinto di quanto, qualche decina di centimetri, però perfetta, precisa dal punto di vista tattico per come ha lanciato e si è posizionato a ruota di Milan e l'ha superato al momento opportuno. Mi ha stupito Koi, perché nonostante l'arrivo sia stato, come dicevi, questione di centimetri, lui ha esultato subito. Un ulteriore simbolo, forse sintomo di grande lucidità e freschezza mentale. Dobbiamo dire anche che l'evento che non ci aspettavamo forse è che dopo questo strano uncino che faceva il percorso di tappa, no, nell'ultimo chilometro, la track davanti è stata rilevata da una figura sorpresa, la maglia rosa, senza la quale probabilmente Johnny numero uno, quello con l'H dopo la J, sarebbe arrivato. Sì, può darsi che la trenata di Pogacar, che ricordiamolo subito, non è stata per ingordigia e per dominio sul Giro d'Italia, ma perché voleva anche restituire qualcosa a Sebastian Molano, che è il velocista della sua squadra, aiutandolo. Perché Molano ha lavorato in qualche modo, nelle prime fasi di tappa, comunque uno che lavora molto, ed effettivamente è arrivato terzo oggi Molano. Per cui terzo, e come si dice a Napoli in questi casi, rielaborando il titolo di una canzone, stiamo parlando di canzoni, Ip te, tu per me, no? Non la conosco. Ho cambiato, ho invertito alcune parole, però è così, no? Mi hai colto alla sprovvista, ma d'altronde non sono così esperto di musica napoletana, mi dispiace, vorrei, accetto consigli ai nostri ascoltatori. L'azione di Pogacar è stata decisiva anche per un altro motivo, perché sono andato a riguardarmi un po' dissezionato, un po' la volata, abbiamo avuto lungo tempo fermi nel traffico per venire al nostro bed and breakfast, che non abbiamo nominato, ma che esiste, dormiamo, avremo anche delle lenzuola questa notte. E perché? Perché la volata è stata così. Con Sonny ha fatto un lancio perfetto. Milan ha fatto un piccolo errorino in questa volata. Piccolo, perché sì, forse è partito un po' presto, ma quando si finisce così di un'attaccatura è dura dire parti 10 metri in più, 10 metri in meno. Il suo piccolo errore è stato di, per istinto, come qualsiasi velocista, provare a mettersi in scia Narváez, che era lì davanti. Solo che Narváez era, non dico piantato, ma la velocità era talmente inferiore che Milan se ne è accorto immediatamente ed ha rideviato a destra per lanciarsi dritto verso l'arrivo. Avrà fatto tipo un metro in più, probabilmente, forse meno, ha perso di pochi centimetri. Insomma, non dico che sarebbe andata diversamente, però ecco, sottolineiamo, perché poi nelle volate sono veramente tante volte dei minuscoli dettagli a decidere il risultato. E un minuscolo dettaglio è quello di Olav Koi, che è stato chirurgico nel battezzare la ruota di Milan, ma che all'ultimo chilometro, all'uncino che citava Michele, in realtà era più indietro. Era verso la sesta, settima posizione. È riuscito a risalire il gruppo, a scodare, togliere Iwan dalla ruota di Milan e mettercisi lui, e quindi poi ha tirato dritto. Come ha fatto Olav Koi a risalire il gruppo? È salito a bordo del trenino di Tadej Pogacar. Sì. Per cui la trenata di Pogacar ha contribuito anche a riportare sotto nel senso, a riportare davanti, a riportare nella posizione che desiderava il vincitore di tappa. Questa, oltre a essere la puntata delle canzoni brutte, come abbiamo detto, è anche la puntata delle coppie, ne abbiamo citate diverse, e qui ci sono altre due coppie nel finale di tappa, quella di Pogacar e Narváez, che si sono sfidati il primo giorno a Torino con la vittoria di Narváez, e che indirettamente si sono sfidati anche oggi, anche se Pogacar stava lavorando per un compagno e non per se stesso, e oggi ha vinto Pogacar. E poi ovviamente Olav Koi e Jonathan Milan, che sono quasi coetanei, Koi è del 2001, Milan è del 2000, e che si prenotano un posto, come dire, prenotano un duello per il futuro. Un posto, come dire, al sole, dove deve essere questo posto? Un posto al sole nell'Empireo dei velocisti del prossimo decennio, va bene così? Sono tutti e due ragazzi giovani, forti, con caratteristiche simili per certi versi. E bello averli visto oggi, forse per la prima volta, in questo primo episodio di questa loro rivalità, chi lo sa. Non so se erano una coppia, ma sicuramente qualche tifoso ha scoperto che la signora che passava di fianco a me, lì in zona mista al traguardo, era la mamma di Jonathan Milan. E così, sfruttiamo questa occasione per fare gli auguri a tutte le mamme. Oggi è la loro festa, Filippo. Sfruttiamola assolutamente. Tornando alla volata, che bello. Gli ha dato sì, una carezza tenerissima dopo l'arrivo. Sciogli cuore. Sai cosa volevo dirti, tornando subito al tema della tappa? Che bello è, Marta, ascoltare dal vivo la voce di Filippo che vivisezziona una volata. Come fa? Vivisezione. Un vero maestro, sei d'accordo? Un vero maestri. Or dunque ti ringrazio, Michele, per questi complimenti e spero di guadagnarmi anch'io un soprannome come quello di Olaf Coy. Secondo me c'era anche a un certo punto il ghepardo di Gavardo. Chiedo ai nostri ascoltatori esperti di velocisti bresciani. Non mi ricordo chi potesse velocista bresciano, Rosola, non lo so. Ma i nostri ascoltatori saranno sul pezzo e ce lo diranno. Chi è sul pezzo ogni giorno, in maniera sempre diversa, almeno oggi diversa, è Tadej Pogačar. Non solo perché lancia le volate, che effettivamente non la conosciamo questa cosa, ma anche perché sembra forse ha fatto un piccolo click nel suo rapporto con questo giro. Possibile. Sicuramente la città di Napoli forse corrisponde di più a certe sue caratteristiche, al suo modo di essere. Oggi era più sorridente, ha bevuto anche un po' di spumante sul podio quando ha stappato per la maglia rosa e si è prestato di più anche ai tifosi, forse perché domani è un giorno di riposo, quindi ha potuto dedicare più tempo a queste piccole incombenze che nei giorni scorsi ci sembravano infastidirlo. E non era mai stato a Napoli. Ha detto che gli è piaciuta molto. Domani vorrà fare un giro con i suoi compagni, bersi un caffè e ammirare le viste di questa città. Uno solo? lui sì. Io dai, penso vai che... lì e digli che ne deve bere almeno 7 al giorno per essere in competizione, insomma. Ha detto che con la lunghezza dei caffè di Napoli, se ne bevi 5 ne hai bevuto un caffè normale, forse. Sempre in conferenza stampa, un po' stanchino e ovviamente allergico, ha comunque, diciamo, gli hanno fatto questa domanda nel parlare, chiedergli ovviamente del perché avesse lavorato oggi, facendo quasi, appunto, tirando la volata a Molano. Lui ha risposto questa cosa, secondo me, molto bella, ha detto: la domanda non dovrebbe mai essere perché. Cioè, lui è un mio compagno, un mio amico e sono felice. Poi ha parlato anche proprio del percorso, del pezzettino in cui c'era anche una parte di... come si chiamano? Dossi. No, i Sanpietrini. Sanpietrini. Non pavè. Erano Sanpietrini. Il pavè. Ciottolato. Parkour, ovviamente. Come diceva Cassani un tempo, non so se l'ha detto anche oggi, gli autobloccanti, che è bellissimo. C'erano gli autobloccanti? Cosa ha detto? Non lo so, c'era di tutto comunque. Io dall'ammiraglio ho fatto dei salti e quindi niente, ha detto la domanda non dovrebbe mai essere perché. L'ho fatto volentieri, lui ha lavorato tantissimo, come abbiamo già citato, però mi è piaciuto proprio quell'attacco lì. Però è anche vero che la domanda perché lavorare ce la poniamo tutti ogni giorno quando ci alziamo, al mattino o al pomeriggio. Domani sarà il pomeriggio, ma non guardiamo a domani, anzi guardiamo a ieri, facciamo... cambio. Sì, perché tiene ancora un po' banco, quantomeno stamattina ha tenuto banco ancora quello che è successo nella tappa di ieri con l'arrivo a Prati di Tivo e la scelta della UAE di andare a chiudere, di non lasciare troppo spazio ai fuggitivi illustri o almeno parzialmente illustri che erano davanti. Abbiamo parlato stamattina con il direttore sportivo o uno dei direttori sportivi della Tudor, Matteo Tosatto, che per anni, per 6 stagioni, è stato uno dei direttori sportivi della Ineos, e gli abbiamo chiesto come l'ha vista, visto tra l'altro che uno dei suoi corridori, Storer, è stato protagonista proprio della fuga chiusa, annullata dalla UAE ieri. Matteo Tosatto, tu sei stato per un po' di anni DS di una squadra importante in classifica, no? Ieri c'è stata una grossa discussione sul comportamento della squadra del leader della classifica, della UAE, che si va a riprendere questa fuga, non si va a riprendere questa fuga, gli si lascia un po' di vantaggio ma non troppo. Tu cosa ne pensi di quello che sta succedendo? cosa penso? Se loro vogliono vincere le tappe fanno bene. La squadra più forte, l'uomo più forte, è la fama di un campione che vuole vincere le tappe, alla squadra forte fanno il suo, cioè dicono no, ma deve vincere sempre più forte, sì, è vero. Però sai, sulla, io come hai detto te, ho fatto 4 anni che lottavo per vincere il giro, non è volontariamente, però sai, quando c'è una fuga che non c'è nessun qualcuno pericoloso per la classifica, puoi anche lasciare andare la fuga. Però sai, loro magari hanno pensato che Bardet può entrare in classifica con uno che ha fatto un podio al Tour. Però sai, se fosse l'ultima settimana potrebbe avere un senso, a fine della prima potrebbe essere anche un rischio, non tanto per Tadej perché è un fuori di classe, ma sai, anche i compagni sono forti, però magari sai, risparmiare qualche energia. Però questa non è una critica rivolta alla UAE, cioè, se loro sono la squadra più forte, ha dimostrato, e vogliono vincere, vincono, sono i più forti. Ma credi che questo tipo di scelta possa poi creare pian piano nel gruppo delle inimicizie o simpatie che vengono meno col passare dei giorni? Ma questo, sai, sarei un bugiardo che, a dire che non è così. Sul gruppo qualcuno si lamenta, però ognuno guarda a casa propria. Io guardo, anch'io avevo uno davanti ieri, Michael Storlo, che se arrivava alla fuga secondo me lottava per vincere la tappa. Il direttore sportivo Baldaddo, che è un mio carissimo amico perché abbiamo fatto 7 anni in camera insieme a dormire, e gli ho detto oh, potevi lasciarmi andare alla fuga che vincevo la tappa, l'ho detto scherzando, ma sai con me davanti non andavano forte. Però ognuno guarda a casa propria. Io devo solo dire complimenti alla UAE. Ritornando al discorso del prima, quando io sono passato prof, che ho avuto la mia rammarico più grande non stare in gruppo con Miguel Indurain, perché lui ha smesso nel 96, io sono passato prof nel 97, e con gli anni sentivo sempre Miguel Indurain era quello, il signore del gruppo, che quando aveva la maglia lasciava spazio anche agli altri. Poi io sono stato compagno di squadra anche di Contador, che tiravo tutti i giorni, abbiamo lasciato vincere qualche tappa, qualche altra squadra, e poi qualche favore ti ritorna. Quando sei un uomo di classifica, magari anche portatore della maglia, qual è il limite per cui un uomo in fuga è pericoloso? Devo valutare tante cose, valutare che tappe che mancano. Tipo ieri c'era Bardet con 5 minuti e 25 se non sbaglio, ha un cronometro ancora che prende altri 2 minuti se va bene da Pogacar. Dunque loro ieri avevano un margine di 7 minuti, ma il discorso che gira per il gruppo come ieri, la fuga non doveva andare a 10 minuti, la fuga doveva andare a 3 minuti, 3 minuti e mezzo, prendevano l'ultima salita con 1 minuto e mezzo che si arrivavano sopra con 30 secondi, non cambiava niente. Ultima cosa, scusa, proprio su Storer, ieri ci ha detto a questo punto proverò magari a perdere altri minuti in classifica, può essere questa la contromisura, cioè stare il più lontano possibile in modo da avere spazio poi nelle fughe senza creare preoccupazioni alla UAE? Noi siamo partiti mica con l'obiettivo di fare classifica, però è lui lì e adesso vediamo giorno dopo giorno. Però poi c'è sempre il rischio che tu vai 20 minuti, vai in fuga e uno c'è 5 minuti, la fuga te la chiude lo stesso. Bisogna stare attenti, antenne alte, e dopo si sa che gli ultimi 10 giorni sono quelli più importanti per tutto, per la classifica generale. Ci sarà quello che lotta per il 5º posto, la lotta per il podio, la lotta per la maglia di montagna, è tutto una lavatrice si può dire. Bisogna essere al posto giusto al momento giusto. Grazie mille. Okay, grazie a voi. Grazie Matteo. Allora, grazie a Matteo Tosatto anche per averci ricordato la parola lavatrice, che è uno degli impegni che tocca prendersi nei giorni di riposo. E questa è la parola del sensei di oggi? Non lo so, quella arriva poi quando c'è il collegamento satellitare dall'estremo oriente. Ma visto che siamo arrivati come tutti i giorni a parlare di Tadej Pogačar, e che oggi non ci sarà il Pogačario perché Marta è stata impegnata con i nostri amici del team Shimano, vorrei fare un piccolo riassunto, chiamiamolo così, della mia esperienza a contatto con Pogačar in questa prima settimana, sua prima settimana al giro nella carriera. Io non l'avevo mai visto di persona, insomma, così vicino come abbiamo avuto modo di fare in questi 9 giorni, ed è forse la persona di cui ho scritto di più nella mia vita senza mai averla vista di persona, era prima di questo giro. Quindi dopo una settimana sono stato un po' sorpreso, il primo impatto non è stato quello che mi aspettavo, perché l'impressione, che magari cambierà nei prossimi giorni, già oggi forse è cominciata a cambiare, è che lui stia disfacendo una tela che aveva costruito negli anni precedenti, questa tela di bonomia, di simpatia, di apertura a chiunque, sempre e a tutti, e pian piano in questo giro, giorno dopo giorno, ha tirato fuori degli spigoli che non gli conoscevo, forse perché lo conoscevo poco, ci avevo parlato poco nella vita. L'opzione 1, forse la più probabile, è che sia un momento, sia una fase passeggera, sia un momento in cui lui ha altre cose per la testa, non lo conosciamo, noi i corridori non li conosciamo per quello che vogliono mostrarci, ma poi c'è tutto, è la punta di un iceberg, le persone sono così, quello che vediamo di fronte poi nasconde tanto altro che non potremo mai conoscere. Un'altra opzione però, che esiste, che le prossime 2 settimane di giro forse ci confermeranno o smentiranno, è che lui stia vivendo una fase di cambiamento. Tadej Pogacar è un ragazzo di 25 anni, è un uomo forse, no? Non è più quel ragazzino che era fino a qualche tempo fa, e forse questo giro, non sappiamo perché, rappresenta per lui un momento di cambiamento. Il suo status è cambiato e forse lui sta percependo, gli va stretta quell'immagine, no? Del ragazzino, come ho detto prima, carino, sempre sorridente, disponibile, e sta diventando qualcos'altro, quantomeno coi media, tutto questo discorso io lo faccio rispetto al rapporto coi media, perché poi in strada e coi tifosi continua a essere quello di sempre. Forse lui, a lui non stanno bene delle cose del sistema, è un po', sta diventando un personaggio antisistema, contro le conferenze stampa, contro questi protocolli che gli vanno stretti, come gli va stretta questa sua immagine, perché lui è un artista, lui da campione qual è un artista, preferisce parlare attraverso le sue opere, che sono le sue corse in bicicletta, più che con le parole davanti a noi, e fa più fatica a fare buon viso a cattivo gioco. Prima magari lo faceva fino agli anni scorsi, veniva, sorrideva a tutti, ora lo fa con più difficoltà, non riesce a fare buon viso a cattivo gioco. E concludo dicendo che, essendo un artista, mi viene da, non so se ve la ricordate, quella definizione di Ennio Flaiano, no? Le tre fasi dell'esistenza, della parabola di un artista. La prima è giovane promessa, la seconda è solito stronzo e la terza è venerabile maestro. Ora non so, non voglio sbilanciarmi, però chissà in quale di queste tre fasi si trova in questo momento o si sta avvicinando il grande artista del pedale che è Tadej Pogacar. Bellissimo, rimanete sintonizzati su Radio Piccione per sapere come evolverà questa sua teoria su Pogacar. Rimanete sintonizzati sul Giro d'Italia, perché poi certo, appunto sono opinioni che possiamo dare oggi, dopo più di una settimana, perché ricordiamoci che, mannaggia chi lo disegna il calendario, il primo giorno di riposo arriva quasi a metà corsa, per cui insomma un po' di giro già ce lo siamo messo nelle tasche, nelle scarpe soprattutto, però ecco, dobbiamo ancora capire se Tadej Pogacar sta cambiando o se Tadej Pogacar ha vissuto una fase, una di tante, per cui il giro ci aiuterà. Io sono curiosa appunto di sentire l'evolversi di questa teoria, perché per ora sono d'accordo fino a un certo punto, nel senso che potrebbe essere davvero un'impressione che ha colpito noi, che ci siamo trovati nel posto sbagliato al momento giusto per il suo fastidio. Perché, sì, assolutamente sì, può essere anche questo. Perché a sentire anche... Io in questi giorni ho fatto un po' di domande in giro tra Pogacario e impressioni anche in altre persone. Ad esempio oggi gli amici di Shimano, quando io gli ho fatto una domanda sciocca, ovvero ma chi è il corridore con cui lavorate più simpatico? Loro senza dubbio, a parte vabbè Chavez, che sappiamo che con loro ha una storia particolare, mi hanno subito parlato di Tadej. E quando gli ho provato a dire ma noi abbiamo notato un piccolo cambiamento, loro ne erano totalmente, diciamo, ignari. Quindi potrebbe essere una faccia che è stata, diciamo, si è svelata solo a noi, anche perché oggi ha detto una cosa interessante rispondendo a una domanda del nostro Pelamiti, ed è stata proprio lui ha l'impressione, ad esempio, di essere un po' perseguitato dalle domande, in qualche modo, anche perché ha detto, dopo la Mixed Zone le stesse persone vengono in conferenza stampa, e questo non è vero, non sono assolutamente, quindi secondo me lui percepisce in modo diverso, potenziato e insomma più pesante, qualcosa che non è. Per cui secondo me ci siamo trovati noi nel posto sbagliato. E ci auguriamo tutti che il proseguo del giro possa rasserenarlo ulteriormente, perché gli vogliamo bene fondamentalmente. Quindi quando viene a parlare con noi nessuno sta lì per accusarlo di qualcosa o trattarlo male. Quindi speriamo che le cose vadano in questa direzione, ma per proseguire il Giro d'Italia abbiamo bisogno del sostentamento non solo dei ciclisti. No, anche perché una delle discussioni che si facevano è magari Pogacar c'ha, scusate se uso un termine tecnico, c'ha i cazzi suoi. Cioè magari ci sono altre cose che lo hanno impensierito negli ultimi giorni, possibilissimo, stiamo parlando di esseri umani che hanno tanti problemi nella vita e che ne sappiamo, magari gli si è disconnesso il bincio. Sei un appassionato di ciclismo? Sei un pedalatore della Fosa Domenica? Il medico di tua mamma ti ha consigliato di pedalare per tenerti in forma? E allora anche tu hai bisogno del Bincio! Bincio! Il Bincio? Ma che cos'è? Il Bincio! Bincio! È un congegno di ultimissima generazione nato da una mente vincente e brillante! Bincio! Ma a cosa serve? Serve a farti superare strade dissestate, cassonetti, ruote di camion abbandonate e i limiti mentali, quelli che ti porti dietro da quando avevi 3 anni! Bincio! Ma com'è fatto? Il Bincio è profumato, colorato, piccolo, discreto, ma grande nelle sue prestazioni! Ma dove lo metto? Da oggi puoi anche collegare il Bincio! Bincio! Direttamente ai tuoi occhiali da vista! Ma io non porto gli occhiali da vista! Allora lo puoi collegare ai tuoi occhiali da sole! Ma io non porto gli occhiali da sole! Allora puoi collegare il Bincio ai tuoi occhiali che non sono né da vista né da sole! Bincio! E da oggi puoi acquistare la nuova versione Bincio Super Bincio! Bincio! Un Bincio uguale al classico Bincio, ma nella versione Bincio Super Bincio! Bincio! Più performante, più accattivante, più costosa! Corri subito, compra il Bincio ed entra nella community del Bincio! Bincio! Bincio! Ma quindi quando i ciclisti lanciano gli occhiali è perché gli si è rotto il Bincio? Beh, ma non so se hanno la versione quella che già si può connettere agli occhiali, non so se fanno parte della community del Bincio. Io non ho mai voluto entrare in una community, ora lo desidero con tutto il mio cuore. Ma noti anche tu, Leonardo, che sì, cioè il numero di volte che viene citata la parola Bincio sta aumentando. Sempre di più, l'ho notato anch'io. Forse perché tutti vogliono un Bincio, come canta il nostro Luca Pedalini. Può essere, non sappiamo se vorranno anche il Bincio Super Bincio, perché quando si lanciano nuovi prodotti sul mercato poi bisogna testarli, come direbbero gli economisti, credo, non lo so, non li frequento gli economisti. Fatto sta che frequentiamo invece tante persone nelle nostre giornate, attraversiamo regioni, province, anche se le hanno abolite, ma poi ci sono ancora, statali, provinciali, province, e lo facciamo in modi diversi. Oggi, per esempio, l'avrete capito, ci siamo divisi e abbiamo così avviato Marta di la verità, verso mi la avete sua smollato prima esperienza come a bordo dell'ammiraglia Shimano. Mi avete mollato lì come un pacco postale perché non ne potevate più. Ma io non vedevo l'ora, non desideravo altro da tutta la vita, quindi sono stata molto felice. Ho seguito alla lettera le istruzioni che mi sono state date, non ho bevuto per 12 ore per non dovermi fermare nella tappa lunghissima ed è stato bellissimo. Ho visto un sacco di cose, ho visto tantissimi striscioni per la festa della mamma, come giustamente ci ha ricordato Pelacci. Ho visto tantissimo amour ai bordi delle strade e gli amici di Shimano mi hanno confermato che è proprio una cosa del giro, che in tante altre corse, mi hanno detto persino nelle strade bianche, la gente talvolta è infastidita dalla presenza della corsa, mentre per il giro c'è veramente un'allegria, una festa totale, e c'era festa totale in tutte le lande desolate che abbiamo attraversato, dagli stradoni a quartieri dove c'erano veramente tantissime persone. E quindi gli amici di Shimano Massimo e il Baldo, mi hanno, insomma, li ho un pochino punzecchiati, interrogati, mi hanno raccontato un po' di cose e... ce le ascoltiamo, sì. Direi. Informazioni, impegnato nel Giro d'Italia fra poco, la nona tappa, la Avezzano-Napoli di 214 km, i corridori hanno iniziato in questo momento il trasferimento verso il chilometro zero. Senti, ma parlami di questo cinghiale, che storia ha? Questo cinghiale è venuto con me dalla prima tappa, è un portafortuna. E che portafortuna potrei avere io, un cinghiale? Quindi fa parte del nostro viaggio per tutto il giro. Lui mi accompagnerà fino a Roma. Ma ne hai un portafortuna diverso ogni tour, ogni giro? O lo scegli? Oppure adesso questo cinghiale verrà con te per sempre? No, porterò altri portafortuna. Questo Giro d'Italia, il cinghiale. Signori, sono in auto con un vincitore di 14 corse. Dimmele tutte. Tutte ora. Non te le ricordi? Una tappa alla Tirreno Adriatico, due tappe al Giro del Mediterraneo, una tappa al Giro di Slovenia, a Gran Premio di Lugano, la tappa del Giro, una tappa al Giro di Liguria, due tappe alla settimana lombarda. Caspita. I piazzamenti importanti, Baldo. Piazzamenti il piazzamento era il mio forte. Sono arrivato 3 volte nei primi 10 alla Milano Sanremo. Attenzione, vedo degli arrosticini. F molto attivi, testa al gruppo. Riders of Polygometa MBF Group, very active up front. Ballando. Appallando cosa significa? No, si fermano. Si allungano? Sì, no, quando vanno forte sono tutti allungati, quando smettono di pedalare. Quando smettono di pedalare si allargano tutta la sede stradale e in toscano si dice appallando. Voce del verbo appallare. Registro. Ma c'è anche modo di divertirsi nell'auto dell'assistenza tecnica? O? Sì, l'assistenza neutra è un modo di divertirsi internamente, fra di noi, quindi assistenza 1, 2 e 3 con la radio nostra, però purtroppo l'assistenza tecnica richiede concentrazione perché comunque quando interveniamo noi interveniamo su un disagio di un corridore o su un problema abbastanza serio, quindi dobbiamo essere concentrati. Di non sbagliare. Ma invece l'intervento di cui siete più orgogliosi, c'è uno proprio... Vabbè, io personalmente mi ricordo quello del Giro d'Italia che poi vinse Nibali, dove Crossvake era primo in classifica con la maglia rosa a 5 minuti, quella, la tappa del famoso Agnello dove Crossvake cadde contro la neve e lì sono intervenuto io. Devo dirti la verità, ora me lo ricordo con serenità, ma non è stato proprio così sereno vivere quel momento in ammiraglia. Traguardo volante, il gruppo viaggia con un ritardo di 1 minuto e 54 secondi. Pinta di Alaphilippe al chilometro 186, il gruppo torna nuovamente compatto, ripresi Pietro Bonne e Maestri. Trentin, Shimano intervenite, front wheel credo. Shimano 2 per favore fermatevi e prendere posizione dietro al gruppo Maglia Rosa, grazie. Chilometro 194, due dossi importanti, eh? Occhio ragazzi. Dopo un momento di nervosismo, diverse forature, 2 per Trentin, siamo entrati tra due ali di folla pazzesche. Situazione un po' più tranquilla adesso? Sì, abbastanza, anche se siamo entrati negli ultimi 15 chilometri, comunque la tensione ci deve essere perché comunque stiamo per arrivare all'arrivo. Sempre Narvaez al comando, adesso la maglia rosa che esce all'inseguimento di Narvaez. Quindi oggi è andata così. Prima mi avevano a microfoni spenti, diciamo, mi avevano un po' raccontato, perché voi sapete già tutto, tutti noi abbiamo ascoltato gli interventi dell'anno scorso, ma io mi sono fatta spiegare un po' di cose e mi hanno raccontato che sta diventando sempre più complesso e delicato il loro lavoro per le quantità di caratteristiche tecniche che devono incrociare, che hanno i diversi corridori. E anche un po', ecco, una cosa interessante che vi volevo dire, che mi hanno detto che a volte manca un po' di comunicazione con le squadre, con anche con gli atleti stessi. Loro mandano dei veri e propri tutorial tante volte anche sui reggisella telescopici e tutte queste ritrovati della tecnologia, e dicono che a volte non sono sicuri che poi i ragazzi siano abbastanza preparati, e quindi anche da facilitare gli interventi. E abbiamo anche scoperto che non solo io e Michele Pelacci abbiamo a volte delle difficoltà, insomma non siamo proprio dei provetti meccanici, ma anche alcuni corridori del gruppo. Quindi insomma, ah, però sì, queste inside news, ci sono tante cose che si potrebbero migliorare, e questa della comunicazione, quindi anche a livello di sicurezza, di regolamenti, regolamenti che li stressano parecchio, devo dire. Mi dicevano che persino il medico, il dottore, a volte adesso ha delle difficoltà nel fare gli interventi, che vengono multati. Non abbiamo ancora citato le multe della giuria a fine tappa, lo faremo nei prossimi giorni. Non abbiamo ancora parlato di vulcani in questo podcast, siamo arrivati alla puntata numero 9+0, d'altronde non abbiamo ancora incontrato vulcani dalla partenza del giro sino ad oggi. Oggi abbiamo attraversato invece un'area assolutamente affascinante dal punto di vista concettuale energetico, perché poi i Campi Flegrei hanno quella particolarità che quando tu vai in giro in quella zona non è che ti sembra di essere tra i vulcani, no? Non abbiamo visto niente, tranne la Solfatara, Pozzuoli, che ti suggerisce. Tranne la Solfatara, abbiamo visto più che altro cartelli, però poi forse ci siamo resi conto di essere arrivati al vulcano quando abbiamo visto stagliarsi il Vesuvio all'orizzonte. In realtà i Campi Flegrei sono il vulcano, sono un super vulcano, sono un'enorme area di caldera con almeno una ventina di bocche eruttive, e sono il vulcano più violento d'Europa. Questa è una cosa che si considera raramente, proprio perché non godono del fascino estetico. Eppure io mi ricordo, ho dovuto riesumare un attimo di miei studi vulcanologici per gli amici di Cycling Podcast che mi hanno chiesto di approfondire un po' la cosa, non vi tiro scemi sull'argomento, però ricordo l'impressione che mi fece quando studiammo l'eruzione principale dei Campi Flegrei, che è di 40.000 anni fa, che è quella che ha come deposito il tufo grigio campano, noto come Ignimbrite Campana, che si rintraccia in Romania. Talmente è stata violenta la sua eruzione, tanto che è un cosiddetto marker stratigrafico. Dove la trovi hai una data, chiaramente, e ti permette di collocare la storia geologica di quell'area, un'eruzione che chiaramente ha avuto effetti disastrosi sul clima, e ci porta un po' a parlare di Campi Flegrei, perché in questi giorni se ne parla spesso. I Campi Flegrei hanno come evento principale che conosciamo le scosse vulcaniche, il bradisismo, che è una deformazione molto lenta, per cui non sono scosse distruttive, ma sono variazioni del suolo che hanno creato anche grossi danni. A Pozzuoli il suolo si è spostato di 3 metri, che è tantissimo, tanto che è stato possibile ricostruirle grazie a delle colonne storiche romane che avevano i segni dei molluschi, se non sbaglio. Questa cosa non sono andato a ripassarmela, comunque hanno visto quanto erano salite e scese. E vi volevo dire, innanzitutto, tranquillizzare, perché è una fase di grandi scosse, ma è monitorato perfettamente quest'area, e la camera magmatica che si riempie di magma e porta chiaramente al sollevamento del suolo e alle scosse, non c'è nessun dato che dica che il magma sta arrivando in superficie, per cui sono movimenti profondi che si sfogano. Però volevo darvi un attimo due numeri per capire di cosa stiamo parlando. Nel mese di aprile Analytics? No, copia e incolla dal sito dell'INGV. nel mese di aprile ci sono state 1252 scosse e oggi, mentre passavamo ai campi Flegrei, l'INGV ha twittato dando i dati odierni, per cui ve li posso dire, alle 6.30 di questa mattina è stato registrato un piccolissimo sciame sismico di 7 scosse tra 0 e 1.7 di magnitudine. Siamo tranquilli comunque. Siamo tranquilli, io mi sento a casa, vivo, passo molto tempo della mia vita in un paese, in un altro paese europeo molto vulcanico che l'Islanda. C'è una somiglianza, oltre che geologica in qualche modo per l'attività dei vulcani, umana tra queste terre. Sembrerà strano dirlo, che cosa hanno in comune i napoletani e gli islandesi? Hanno un certo aspetto del loro carattere che ha a che fare col vivere nel presente, no? I vulcani ti obbligano a vivere questo momento, perché è difficile fare programmi a lungo termine quando si sta al cospetto di forze della natura così imprevedibili. E quindi in certi aspetti della mentalità gli islandesi assomigliano ai napoletani o viceversa, anche se sembra strano. Però la canzone, ne citiamo una bella finalmente, diceva Campi Flegrei, gente che va, tempo d'aprile qualche anno fa. Per cui comunque c'è il presente ma c'è anche il passato quantomeno. Io ho sentito Geolier prima citato, adesso invece mi assicurate, voi due, non ho opinione Daniele, Filippo, Geolier, voi due mi assicurate che quindi quelli di ieri erano i prati di Tivo, erano effettivamente distese di prati. I campi Flegrei non sono realmente campi. Te lo assicuro, e ti posso dire anche un'altra caratteristica incredibile del Giro d'Italia che accomuna invece l'arrivo di oggi all'arrivo dei prati di Tivo. Oddio. In entrambi i posti il primo bar dopo l'arrivo si chiama Chalet. Pazzesco. Sia in cima sul Gran Sasso che sul lungomare di Chiaia. Non male, soprattutto lo chalet del lungomare di Chiaia. No, non male assolutamente, uno chalet qui a Chiaia. Ma facciamo un passo indietro a questa mattina, quando abbiamo fatto il nostro consueto incontro coi corridori. E quello odierno è un corridore che è stato protagonista in alcune fasi della tappa di oggi e ha vinto attraverso un suo compagno di squadra. Sto parlando di Jan Tratnik della Visma Lise Bike, compagno gregario oggi di Olav Koy. Tratnik, che ha 34 anni, sloveno, nato a Lubiana, lo conoscete, quest'anno ha vinto la Omloop in primavera. Het Nieuwsblad, diciamo le cose con il loro nome. Non mi sono spinto troppo in là, ma ascoltiamo la prima parte dell'intervista con lui. Buongiorno Jan, how are you? Good. I have a question about your routine. I have read that in the morning you usually do some meditation and yoga. Do you have time for this during a grand tour, during this Giro? Yeah, I mean, if I don't do in the morning, then maybe I do after the stage, but yeah, it doesn't matter how long it takes, it's even just 5 minutes is enough sometimes, so for sure you get a time, also here on Giro. Do you still enjoy going around with your bicycle? Do you have time to look around when you are racing, or not anymore? Yeah, I still enjoy, but I can say yeah, that racing, it's much different than before, so it's much more stress and you need to be aware on every corner, on every meter, and it's, yeah, sometimes you don't get this free time to look around, but yeah, I still enjoy and sometimes I also see some beautiful places. Eh? Dunque, buongiorno Jan, come stai? E lui ha risposto molto secco, good, perché dire altro quando le risposte sono così semplici, sta bene? Ho una domanda sulla tua routine, gli ho chiesto, perché ho letto che al mattino tu sei solito meditare e fare yoga. Ci riesci anche durante i grandi giri, in particolare in questo Giro d'Italia? Lui ci ha pensato, poi ha detto sì, anche se non lo faccio al mattino, poi trovo il tempo di farlo nel pomeriggio, dopo la tappa, non importa quanto tempo ci dedichi, qualche volta 5 minuti sono sufficienti. Quindi il tempo, se uno vuole, lo trova anche al Giro. E lui poi è un personaggio, è un corridore, un uomo che ha particolare cura del suo equilibrio psicofisico. Proprio dopo la vittoria di questa primavera alla Omloop ha parlato molto del suo rapporto con l'alimentazione. Non ne parliamo adesso, ma vi consiglio, se avete tempo, di cercare alcune sue interviste rilasciate quest'anno e quello che ha detto sul rapporto col proprio corpo e con l'alimentazione. Ma al di là di questo, io gli ho chiesto, sei un corridore molto esperto, ti diverti ancora ad andare in giro con la tua bici, ti guardi intorno, oppure non lo fai più? E lui ha detto, mi piace ancora, certo, però adesso è diverso, le corse sono diventate più stressanti, devi essere aware, avete sentito, aware, quindi attento, diciamo così, in ogni angolo, ogni metro, spesso non hai un secondo libero per altro, però mi piace ancora e qualche volta qualcosa di bello intorno a me la vedo. This year you have won an important race already. How is different working for someone else and trying to win yourself? The approach is different or is just the same for you? I think that from training-wise and all preparation, it's the same. But I think it's more mentally, like how you deal with pressure and everything. For sure, if you are lonely leader, it's more pressure and everything. But yeah, in this team, we share the work, and yeah, I got this opportunity and I took it. And yeah, it was really nice to win. Quindi gli ho chiesto come seconda domanda, quest'anno hai vinto una corsa importante, che differenza c'è tra lavorare per gli altri, come ha fatto oggi, e provare a vincere in prima persona? È diverso l'approccio o è sempre lo stesso? E lui ha detto dal punto di vista dell'allenamento e la preparazione è uguale, è una questione esclusivamente mentale, di come gestisci la pressione. Se sei l'unico leader, la pressione ovviamente è più alta. In questa squadra però condividiamo il lavoro e io in quell'occasione, in occasione della Omloop, ho avuto l'opportunità e l'ho colta ed è stato molto bello. Infine gli ho chiesto, da corridore esperto, cosa sta insegnando al capitano della Visma per la classifica generale, che è Kian Uijdebroeks. Yeah, it's just that he need to be patient, you know? And yeah, he need to trust to us, and yeah, just don't think too much what will come, but just go day by day, and then yeah, we will find the solution from stage to stage. But yeah, just no panic. He's so young that he don't need to stress about that, and we are here to teach him and to guide him, and I believe that everything will be really good for him. You are the one that finds the solution for problems in this team. I mean, not. I think it's like everybody help each other, so it's not that I'm or somebody else. It's really like one guy who help, but I think we are like unit, like a team, and we help each other together. So yeah, everybody is a helper, or how can I say, trying to solve the problems. Grazie mille e buona tappa. Grazie, buona giornata. E allora, Kian Uijdebroeks, che è quinto al termine della prima settimana di giro, ha bisogno, secondo Jan Tratnik, di essere paziente e di fidarsi dei suoi compagni di squadra. Non deve pensare troppo a quello che verrà nel futuro, ecco, rimanendo in tema di vivere nel presente, ma appunto giorno per giorno, e noi troveremo la soluzione giorno per giorno, tappa dopo tappa, niente panico. Lui è giovane, non gli serve a nulla stressarsi, e noi siamo qui per insegnargli le cose, per guidarlo, e sono certo che alla fine tutto andrà bene. E io a quel punto gli ho detto, tu sei quello che nella tua squadra trova le soluzioni ai problemi? E lui ci ha pensato, poi ha detto, no, non credo, tutti aiutano tutti nella nostra squadra, non è una persona sola, siamo uniti, siamo appunto un team, tutti sono aiutanti e risolutori di problemi allo stesso tempo. E poi avete ascoltato in italiano il suo buona giornata, e mi sembra di poter dire che per loro sia stata una ottima giornata, anche per noi. Per loro, per noi, mai quanto ottima sarà la giornata di domani, ma dopo domani, in questa puntata viaggiamo tra passato, presente e futuro, manco fossimo da Voyager, e dopo domani ricomincia il Giro d'Italia. Siccome ci si riposa, abbiamo dato un attimo di riposo anche al nostro pozzo di scienza, Domenico Pozzovivo, e quindi brevemente la tappa di martedì la chiedo al pozzo di scienza parmense Michele Florindo Gutierrez Pelacci. Wow, come si fa l'accento lucano, la cadenza di messa? No, abbiamo detto pozzo di scienza parmense, che accento lucano devi fare? Allora parto subito. 142 chilometri da Pompei a Cusano Mutri fino a San Felice a Cancello, una quarantina di chilometri pianeggianti, poi si sale verso il massiccio calcareo del Taburno Camposauro, dove un GPM di seconda categoria renderà la corsa frizzantina. In provincia di Benevento esistono solo toponimi pazzeschi, quindi dopo solo Paca e Guardia San Framondi, a Cusano Mutri comincia la salita finale, 18 km al 5,6% medio fino a Bocca della Selva. Un arrivo in salita quindi caratterizza la prima tappa della seconda settimana. Sì, io apprezzo sempre il coraggio con cui Michele inserisce nei suoi riassunti o presentazioni di tappa i nomi difficili, perché vuole cimentarsi, perché, insomma. Sì, sì, è una persona che non ha paura di sfidare parole nuove e pronunce diverse dal solito. No. Questa cosa ce la ricorda ogni giorno anche il nostro sensei. Ah, siamo a quel momento là. Non devo volevate evitarvelo, assolutamente, pensavate che potesse saltare per una volta. Michele ci sperava, siamo arrivati fin qui e non l'aveva ancora sentito il sensei, e invece il sensei anche oggi ha pensato a noi. La parola del giorno. Kyono hitokoto. Riposo. Kyusokubi. Giorno di riposo? Uguale. È difficile questa, eh? È difficile anche perché poi è stato interrotto da quel tizio che parlava con lui, non ho capito chi fosse. E... collegamento, io pensavo che arrivasse direttamente via satellite. Via satellite, sì sì. E si vede che oggi aveva invitato un amico, non lo so. Comunque, non distraiamoci che poi Michele se la dimentica, l'ha ripetuta anche una volta sola oggi il sensei questa parola. Però, cioè, è chiuso Kubi? Chiuso QB, bello, bello, mi piace. Secondo me sei andato molto bene quest'oggi. Marta, cosa ne dici? Che sarebbe chiuso quanto basta, non ho capito. Non ho chiaro, anch'io, come riposo sia una parola lunga in giapponese, ma giorno di riposo sia molto corta. No? Non lo sappiamo, fatto sta che riposo... chiuso QB. Domani Michele Pelacci starà tutto il giorno di chiuso QB a studiare giapponese, finalmente potrà dedicarsi a questa attività che un po' sta facendo a spizzichi e bocconi. Noi non facciamo i pronostici sulla tappa di martedì, non facciamo nemmeno un una cosa... di chiuso QB. No, neanche un'altra cosa che facciamo di solito alla fine della prima settimana di giro, aggiornare i nostri pronostici su chi vincerà il giro. Tanto li sbagliamo tutti sempre. Cioè. Li sbagliamo e soprattutto questa puntata è già sufficientemente lunga. È lunghissima ma non è ancora finita. Prima cosa, perché io voglio sapere, perdonatemi, ma l'emozione di Marta nell'affrontare il suo primo giorno di riposo al Giro d'Italia. Non lo so, sono frastornata, devastata. Stavo per addormentarmi durante la parola del giorno, quindi mi lancio nel giorno di riposo come un Olav Koi qualsiasi. Fantastico, ricordiamo sempre che riposo fu un grande successo perché in 30 pagarono il biglietto e andarono dentro a dormire, ma ricordiamo soprattutto che domani noi non riposiamo. Almeno alcuni di noi non riposano la giornata di domani o riposano solo fino a una certa ora, perché alle 19 saremo a Napoli a parlare di Alvento, parlare di questo podcast, parlare di un po' di cose e tenere a bada le fan di Pelacci alla Bicycle House in Galleria del Principe 27, e vi aspettiamo lì alle 19, ci beviamo qualche birretta e ci salutiamo. E adesso invece noi ci salutiamo modo migliore. Sì, però questo significa che domani Gironimo non va in onda, cioè non viene pubblicato l'episodio solito di Gironimo. Facciamo una puntata di un'ora e mezza stasera, esatto, per accontentarvi. Ve la dividete, ve la centellinate. E se così. Solo lo sapesse un tale signore che deve dare la linea spesso, sarebbe così felice. Forse domani lui va in onda. Forse va lui in onda domani, non lo sappiamo. Sappiamo che la puntata di oggi si conclude, come diceva Filippo, nel modo migliore possibile con... Il nostro sensei. Sì, diciamo perché, anche perché tra i luoghi della tappa non l'abbiamo citato, ma siamo passati da Cassino. È stato un momento per ricordare una straordinaria pagina di letteratura ciclistica, forse una delle migliori pagine mai scritte della letteratura ciclistica. Un estratto del racconto del passaggio del Giro d'Italia da Cassino, scritto da Dino Buzzati, ce lo legge il sensei delle nostre anime, Gino Cervi, e con quello ci salutiamo e buon riposo a tutti. Ciao! Roma, 27 maggio, notte. Perché l'antica e nobile Cassino non era oggi ad aspettare i corridori del Giro d'Italia in viaggio da Napoli a Roma? Sarebbe stato così gentile. Invece non c'erano le belle ragazze alle finestre, mancavano anche le finestre, mancavano i muri in cui le finestre si aprissero. Non c'erano festoni di carta velina policroma tesi fra le vecchie piccole case colorate in rosa. Mancavano perfino le case, le strade. Niente c'era tranne che dei sassi informi cotti dal sole e dal colore biancastro. E polvere, ed erbacce, sterpi, anche qualche alberello a significare che ormai là comandava la natura, ovvero sia la pioggia, il vento, il sole, le lucertole, gli organismi del mondo vegetale e animale, ma non più l'uomo. Paziente creatura che per molti secoli aveva là vissuto, lavorato, amato, procreato nell'intimità delle sue apposite abitazioni da lui costruite pietra su pietra, e adesso invece niente, niente più esisteva. Ma non c'era proprio nessuno più in quella gigantesca cicatrice bianca che risplendeva selvaggiamente al sole sul fianco della valle. Sì, c'era, ridotto in irriconoscibili frammenti, schegge d'ossa o polvere, oppure ancora intero, ma sepolto sotto i sassi informi. Un vecchio, forse, o una donna, o un giovane che non aveva voluto assolutamente muoversi di là, quando le grosse artiglierie d'ultimo modello intrapresero la più pedantesca e totale demolizione che si sia mai vista al mondo, così come non restasse più neanche un moncone di muro alto 2 metri, neanche un minimo riparo dietro cui un soldato di bassa statura si potesse defilare, tutto spianato come alle origini del mondo. Meglio anzi, perché alle origini vi si stendeva probabilmente una vegetazione d'alberi e cespugli. «Il giro?» rispondeva costui. «Ma noi qui di Cassino Vecchia non siamo pronti, e ci manca tutto per accogliere decentemente i corridori. Abbiate pazienza, non abbiamo più strade per farli passare, né occhi per vederli, né voci per gridare viva, e neppure mani per gli applausi. Su, sorgete, un momento solo, c'è Bartali, c'è Coppi, non avete voglia di vederli, se non altro per curiosità, basta mezzo minuto, su, un piccolo sforzo, e poi tornerete nel vostro sonno. Corrono forti i giganti della strada, si fa appena in tempo a guardarli e sono già passati». «No, no, lasciateci dormire», rispondeva la voce. «Rivolgetevi agli altri, a quelli che sono rimasti, è un po' indiscosto. Vedete, dove la valle si allarga, stanno ricostruendo. Cassino Nuova, intendo. È già in piedi. Ci hanno dato dentro a lavorare, no? Vediamo, sì, ma è un'altra cosa. Commovente, bellissima testimonianza della tenacia umana. Però queste nuove orrende architetture carcerarie non hanno niente a che fare con la città di prima. Non sono neanche razionali, perché in case così brutte la vita sarà sempre incomoda e triste. Non è Cassino questa. È una creatura strana e diversa, che fa risaltare ancora più crudelmente la cicatrice sul fianco della valle». «Capisco», diceva la voce, «ma è troppo tardi. Se risorgessimo anche per un minuto, la gente viva si spaventerebbe, si ricorda di noi e ci vuol bene, purché ce ne stiamo silenziosi e quieti sottoterra. Troppo tempo è passato. Gli anni cancellano. Qui dove era la mia camera, il letto, l'immagine del santo, la pannocchia appesa al muro, lo schioppo, 2 o 3 libri, il trespolo con la catinella, adesso c'è una pianta di nocciolo e i pietri rossi saltellano sui rami. Meglio così, forse, e rinunciare al giro». «The giro? What's that?» domandava allora, risvegliato dal clangore dei clacson e dallo strepito delle macchine, Martin J. Collins, già soldato, addetto al rifornimento munizioni ed ora, per lui, fantasma esangue, qui stabilitosi per sempre. «Was ist los?» domanda allora, a 1 metro da lui, il già Feldwebel Friedrich Gestern, pur lui trasformato in pura rimembranza da un colpo magistrale. E anche altri si svegliano, invisibili a noi lungo le proderi diventate verdi, nelle vallette che oggi al sole di maggio possono sembrare altrettanti paradisi e 5 anni fa brulicavano di morti. Quanti sono? Un esercito di innumerevoli uniformi e razze commisti, uomini che si scannarono a vicenda ed ora vivono uno accanto all'altro in serenità, pacificati dal supremo armistizio. Ma forse, scusateci, non è cosa per voi. È vita questa, nella sua forma più ingenua, clamorosa, e per voi un po' irritante, temo. Scusateci. Si passava di qui, se vi abbiamo svegliato ci dispiace. Noi si voleva soltanto dare un saluto alla vecchia Cassino che non esiste più, e voi qualcosa ne sapete. Non abbiate paura, ce ne andiamo subito. Poi non ci vedrete più per 1 anno almeno. Buon sonno, ragazzi». E noi guardammo lo sciame dei corridori, così allegro con tutti quei colori di maglie e le biciclette scintillanti. Guardammo la gente che palpitava d'ansia, gli agenti della polizia stradale che si affannavano a regolare la marcia del seguito. Tutto quel piccolo mondo galoppava pazzamente su per l'Italia. Il sole risplendeva, c'era caldo. Chiederanno: «Sempre tutti in gruppo?»